guardo il cielo, quella stella splende d'amore sempre di più, splende da lassù. Tra le macerie, dopo il bombardamento, e cerco di ignorare l'agonia che mi avvolge nel centro. Scena della catastrofe, è arrivato un mostro che nutre sé di carne, che strappa le sue vittime senza mai toccarle, fomenta conflitti che costruisce ad arte per farne degli alibi, copre i suoi delitti offuscandoli, guardali, cerca già di farteli dimenticare. Tu speri non accada più, almeno non succeda a te, scongiurando, e invece c'è quel male, eppure sa dove colpire, mira, preciso, ben appostato come un cecchino ucciso. Popolazioni intere, nascosto nell'ipocrisia di tele, visioni manipolate bene, tesse tele come un ragno, l'insetto non le può vedere, cade nell'inganno del gran burattinaio, sempre più corti i fili e aumentano le marionette. Hanno nuve, pedine e soldatini, sul tavolo da gioco scommette, perdendo mille vite di bambini, donne e vecchi, neanche li conosce, li fa secchi. Giù altre bombe, si apre il cielo e piove nuova morte, luci nella notte e poi più niente. Questo è necessario e per il bene vero, continua la conquista, sporco impero, sporco imperatore, stringi mani per accordi fraudolenti con il diavolo. Non hai più l'anima e dal pentagono, con un solo gesto gliene puoi offrire milioni, pronti per l'attacco battaglioni. Buona strage, giù altre bombe, si apre il cielo e piove nuova morte, luci nella notte e poi più niente. Questo è necessario e per il bene vero, continua la conquista, sporco impero, dannato impero. Giù altre bombe, si apre il cielo e piove nuova morte, luci nella notte e poi più niente. Questo è necessario e per il bene vero, continua la conquista, sporco impero. Che sia l'impero, lo stato eletto da Dio è una scusa, non può essere messia chi è eletto presidente degli USA. Domanda scusa a nessuno, l'offesa è profusa, usa menzogne come capo d'accusa ed annusa. L'oro nero che è il solo vero sclero che rende scuro il cielo, ora l'impero abusa, sì, ma abusa per davvero. Il siero del terrore viene iniettato nel pensiero, timore e psicosi fomentate da un vangelo, e zero terrorismo è una messa in scena piena di cinismo. Il qualunquismo giunge fino al giornalismo, ti smotterei, a me rifarlo, sì, se solo potessimo. Ora il tuo potere li ha messi, i popoli stessi in catalessi, inessi, logici sono scomparsi tra gli inganni che intarsi, codici civili arsi, falcidiati da catarsi, farsi, ficcando stragi, picchiando ostaggi, raggi ricoprono bombe su gentili paesaggi, tu di nuovo ingaggi, campagne immonde, si apre il cielo e piove, nuova morte, luci nella notte, poi più niente, questo è necessario, e per il bene vero, continua la conquista, sporco impero, aio. Morte, distruzione, democrazia in azione, deportazione di persone, più devastazione, reazione bellica, ribelli, kamikaze, belli incamerando odio, incazzati contro l'America. Sul podio sto, presidente sembra santità, incita alla vincita, poi lincia anche la dignità, incita occidentali, oggi libertà significa colonizzare, dire di importare la civiltà, cecità, la gente in TV vede dietro al plexiglass, sexy glamour e soubrette, smette di pensare a jetti d'armi, da fuoco, d'armi, lo sciocco fa parte di sto gioco mentre scoppia un botto su Baghdad. Su Baghdad. Giù altre bombe, si apre il cielo e piove nuova morte, luci nella notte e poi più niente. Questo è necessario e per il bene vero, continua la conquista, sporco impero, dannato impero. Giù altre bombe, si apre il cielo e piove nuova morte, luci nella notte e poi più niente. Questo è necessario e per il bene vero, continua la conquista, sporco impero, dannato impero.